Sì, una cosa che non, due cose che non ci ha detto Nives. Una che appunto questi incontri, poi alla fine Nives, l'azienda di suo papà, sarà qua in questi 3 giorni, che Nives, oltre ad essere delle brigate di solidarietà attiva, è anche un'azienda di famiglia, e quindi questo è un altro pezzettino che si è aggiunto. E l'altra che le brigate di solidarietà attiva sono state in Emilia dopo il terremoto, in provincia di Modena, giusto? A Mirandola, quelle zone, Cavezzo, e anche lì hanno costruito un campo di accoglienza slegato un po' dai meccanismi che sono quelli dell'intervento, diciamo così, istituzionale, statale, con tutto quello che concerne, no? Con l'istituzionalizzazione anche della solidarietà, con tutta una serie di dinamiche e dispositivi agghiaccianti, no? E quindi anche lì si è sviluppato un processo di partecipazione, di autogestione, di auto-organizzazione della comunità, in un momento di come dopo un terremoto, insomma, di una comunità. Quindi anche lì è una narrazione interessante. Un'altra esperienza che abbiamo conosciuto con la Terra Trema è Eva. Ecovillaggio autocostruito, giusto Isabella, che dopo il terremoto in Abruzzo ad Aquila, questo gruppo di persone ha deciso di ricostruire, costruirsi un'alternativa dopo un evento del genere. Non dico altro prima che dico qualche cazzata, vai tu.